Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime confuse notizie dai musei. A Milano ridono, sono contenti, 100 milioni per il museo, il grande museo di Brera. A Napoli si piange perché per il museo del Madre non ci sono i soldi per pagare le bollette. In questi giorni ci arrivano queste notizie e anche altre ancora contrastanti. La Confindustria chiede di agevolare l'ingresso dei privati nei musei, ma la UIL, con una ricerca della settimana scorsa, ci fa sapere che oltre la metà dei biglietti per i musei non vengono pagati. Ma è possibile che l'investimento nei musei non sia buttare i soldi pubblici? Benvenuti a Time Out. Io sono Luca Mastrantonio e assieme ci prenderemo una mezz'ora di pausa, schiacceremo pausa nell'aggregatore, nell'accumulatore di notizie che durante la settimana si accumulano e spesso anche in maniera contraddittoria, un flusso di notizie che si contraddicono. Il sabato e la domenica mattina cercheremo di trovare un senso a delle notizie che a volte un senso sembrano non averlo. Oggi parleremo della febbre da musei. L'Italia ha 3.000 musei di ogni tipo, per ogni gusto. Ognuno si apre il suo personale museo. Se andate su Google scoprirete che ogni settimana c'è un nuovo museo che apre. Ma c'è un settore particolare dei musei, quello dell'arte contemporanea, dove ormai sembra una gara, quasi una corsa al mattone. Sembra anche quasi una bolla speculativa, perché sono cifre da calciomercato estivo, cifre che fanno sognare, cifre che poi magari fanno anche presentare i libri contabili delle società calcistiche e quindi rischiano la bancarotta. Infatti non sappiamo ancora se essere apocalittici o integrati, lo capiremo in questa pausa di Time Out, ma lo scenario peggiore che noi vorremmo scongiurare è quello di un'Italia che un domani dovrà mettere in vendita la sua argenteria dei musei. Musei in saldo. Bologna, Mambo, museo d'arte moderna, 9.500 metri quadrati nel cuore del distretto culturale della manifattura delle arti. Economicissimo, budget annuale di soli 5 milioni di euro. No studenti. Milano, centralissimo supermuseo Grande Brera, composto da prestigiosa vecchia Accademia delle Belle Arti da ristrutturare, più Brera 2, consegna lavori immediata. Nel 2015, spesa totale 100 milioni. Un affarone. Roma, centro. Macro, museo d'arte contemporanea. Laicissimo e ben servito, a due passi da Porta Pia. Posti auto, ampia metratura, costo 20 milioni di euro trattabili. Siete dei perditempo? Non astenetevi, non è ancora stato ultimato? Benissimo, quindi avete capito, la situazione può essere davvero grave, ma per fortuna non è seria. Ne parliamo con Adriana Polveroni, autrice di un libro, Lo Sboom, che ha raccontato un decennio di flop e di bolle speculative in arte contemporanea. Buongiorno Adriana Polveroni. Buongiorno. Ma lei, se avesse 100 milioni di euro, si comprerebbe Cristiano Ronaldo o il Grande Museo di Brera? No, penso nell'uno e l'altro, forse. Mi comprerei, seguendo un po' le mie passioni, mi comprerei una magnifica barca a vela. Comunque, battute a parte, c'è da dire insomma che questi investimenti nei musei possono essere anche, come dire, anche molto dilazionati nel tempo, cioè le date che poi vengono fornite al momento della loro progettazione, al momento in cui vengono accolti e finanziati anche i progetti, e non è detto affatto che poi le date di consegna siano rispettate. Faranno mica la fine della Salerno-Reggio Calabria, però. L'investimento può essere, come dire, cioè, può farsi attendere a lungo. Ecco, ho citato prima il suo libro, decisamente più importante. Lei è una critica d'arte del Gruppo Espresso, ha scritto anche per Franco Angeli This is Contemporary, quindi è la persona più indicata per farci capire se c'è ancora un aspetto forse speculativo però in questo investire nelle infrastrutture senza poi sapere se ci saranno i soldi per mantenerli questi grandi musei. Il caso del Madre è emblematico, appunto addirittura hanno 7-8 milioni di debito, devono pagare le bollette. Ci sono notizie anche degli ultimi giorni, anche delle ultime ore, addirittura metà dei visitatori non paga, scrive Repubblica.it. E quindi qui forse c'è qualcosa che non torna. Il Luna Park è gratis, chi lo paga? Lo paghiamo forse noi, perché questi milioni ovviamente arrivano dallo Stato italiano. Certo, il Luna Park in genere è gratis, la cultura non viene pagata, questa è una usanza, insomma, un'usanza piuttosto radicata, peraltro non solo nel nostro paese, ma anche perché c'è l'idea sempre che la cultura poi non renda, insomma, che non sia un investimento in entrambi i sensi, sia d'entrata che di uscita. Quindi è come dire un lusso che se ci si può permettere tanto ci si può permettere, insomma, appunto viene dato gratis, eccetera. Ora, questa idea di far pagare il biglietto e quindi di poter incrementare le risorse, i fondi dei musei, mi sembra un po' ingenua, francamente. I musei certo non... Sì, i biglietti contano. Beh, creerebbero anche ingressi, dei posti di lavoro, diciamo. Sì, però, insomma, purtroppo la cultura indubbiamente per certi versi è un lusso, cioè è un bene che costa, che però può il lusso dare si poi... È molto importante invece la presenza del museo per quanto riguarda la rivalutazione immobiliare del terreno in cui questo sorge. Qui apriamo un discorso che veramente ci può portare molto lontano. Sì, però perché... questo è, insomma, molto spesso, comunque diciamo non è trascurabile il fatto che i musei vengono fatti anche per riqualificare, per cui poi anche per guadagnarci, insomma ce ne sono di esempi sia in Italia che all'estero. Beh sì, c'è a Barcellona il MACBA, rivoluzionato sì, il Raval. Ma c'è anche l'Hangar Bicocca a Milano, cioè per restare più dalle nostre parti, il Museo Pecci di Prato. E i Parioli avevano bisogno di rivalutarsi con il Maxi con l'aspetto immobiliare. Beh, e allora Parioli, però diciamo anche Flaminio. C'era l'idea, insomma, urbanistica intelligente, secondo me, di creare una nuova centralità più contemporanea, più adeguata ai nostri tempi e ai nostri consumi culturali, che poi quando si parla di museo, insomma, bisogna parlare di museo e di cultura, indubbiamente cioè, dobbiamo anche usare questa parola magari poco nobile, che è quella del consumo. Ma va benissimo, perché se l'arte non si consuma si usura da sola, ed è anche infatti un peccato. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io, no tu no. E ringraziamo Adriana Polveroni, critica d'arte del Gruppo Espresso, che ci ha ricordato i musei, questi grandi musei, sono spesso delle operazioni con dei risvolti immobiliari importanti, quindi anche speculativi se non controllati bene, e soprattutto il tabù del mercato. I musei d'arte contemporanea sono dei megastore del bello, dove il bello deve essere consumato, deve essere vissuto, altrimenti dobbiamo sempre attaccarci alle mammelle dello Stato, dobbiamo chiedere i soldi allo Stato italiano, e di questi tempi con Italia al cinema e i problemi che noi ben sappiamo, non è il caso di chiedere allo Stato di spendere milioni, centinaia di milioni di euro per l'arte contemporanea. E in fondo però questo richiamo femminile, questo richiamo materno, quasi da nutrice, ce lo suggeriscono gli stessi super musei di questi ultimi anni. Il Macro di Roma, il Maxi, sembrano nomi anche qui appunto maschili e virili, ma se vediamo gli altri loro coetanei già ci portiamo invece nel versante femminile: il Madre di Napoli, il Museo d'Arte Donna Regina, e addirittura il Marta di Taranto, un nome proprio di donna. E in fondo è un legame affettivo quello che noi dobbiamo sviluppare con i musei che quasi ci chiedono qualcosa, il biglietto d'ingresso, ci chiedono soprattutto amore. L'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiana infatti è un grido d'aiuto, è un grido, una richiesta d'amore. Si chiamano Amaci, Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiana. La loro rivista è I Love Museum e organizzano ad ottobre una sorta di gay pride, di grande festa in cui i musei sono aperti a tutti, anche gratuitamente. Qui appunto il problema dei soldi. Ma sentiamo qualcuno che nei musei d'arte contemporanea espone. Così parlò il tuono, e siamo in collegamento con un artista che ha portato, se non i tuoni, i fulmini dentro il Maxi, Alberto Garutti, che è stato ospitato dal Maxi nella primavera del 2009, e salutiamo al telefono. Buongiorno Alberto Garutti. Buongiorno. Ecco, allora ci aiuti, lei che appunto è stato il primo a incendiare d'arte contemporanea al Maxi, questa esperienza e come si può trasformare un museo in uno spazio che interagisce addirittura con il cielo italiano. Quando cadeva un fulmine si illuminavano le lampadine della sua installazione. Io ho per la prima volta appunto con la mia opera ho occupato lo spazio del Maxi con 200 grandi lampade alogene, e per la prima volta dunque un'opera entrava nel museo, questo museo si sarebbe, nella sala di questo museo si sarebbe illuminata mostrando ai cittadini che, come dire, le finestre si sarebbero accese, e così è successo. In sostanza, la prima volta che un'opera entra in un museo parla del cielo, dell'universo. Penso al museo come a un luogo dove, come una batteria, insomma, come una dinamo, non so come dire, come un luogo che produca energia, che faccia sì che lo spettatore, una volta entrato, si possa, come dire, caricare di quell'esperienza, di quella, diciamo, anche autonomia, del sentirsi in qualche maniera responsabile, no? di quello che vede. Di quello che vede e di un ruolo che tutti noi abbiamo, che è quello di assumerci la responsabilità. Quindi forse la damnatio dei futuristi verso i musei, almeno in Italia, sembra destinata a soccombere. Ringraziamo Alberto Garutti di essere stato con noi, grazie. Arrivederci, maggiori. E dopo queste illuminazioni di Alberto Garutti ci prendiamo un time out e ci sentiamo a tra poco. Time out. Guarda, 1078. Che vuol dire? Buona. Ma che so? So in butini, vedi? Pure io li metto così quando spiccia la cucina. Sì. Oh, scusa. Oh, no, se siamo sbagliati, è una stalla questa. Ma che stalla? Questa è l'opera d'arte israeliana. Opera d'arte? Ed è? È un'opera d'arte israeliana, dici? Ma porta la natura stessa. Professore, io è la prima volta che vengo alla Biennale e non avevo l'idea di quello che può essere la pecora vivente. Avevo detto alla mia signora, sono sculture. Non so sculture, so pecore, altro che cazzi, so pecore. Ma che te sei? Eccoci a time out per capire se una pecora dentro un museo, dentro la Biennale, è un'opera o, come pensava il buon Alberto Sordi in prima battuta, so solo pecore. E ne parliamo con un curatore, un critico d'arte che è stato direttore della Biennale di Venezia, anzi è stato il primo direttore americano, anche se lui è italiano, ed è Francesco Bonami che abbiamo al telefono. Buongiorno Francesco Bonami. Buongiorno. Questa Biennale con le pecore, opera israeliana, era buona questa Biennale di Alberto Sordi, oppure ogni tanto ci finiscono dentro delle opere che poi opere non sono? Beh sì, le opere che non ci sono è sempre un rischio, perché l'arte contemporanea avviene in diretta, quindi non possiamo sapere se la storia poi trasformerà delle cose, come la scatoletta di Manzoni o l'orinatoio di Duchamp o tantissime altre cose. Quindi non sapremo mai se una pecora che vediamo in un campo è una futura opera d'arte o semplicemente una pecora. Ecco, beh, lei ci sta, lo spieghiamo anche ai nostri ascoltatori con un po' di differita, lei ci sta parlando dall'America e d'altronde, appunto ho detto, lei è stato il primo americano a dirigere la Biennale di Venezia e così per ironia è stato anche il primo italiano a dirigere la Biennale d'arte del Whitney Museum di New York. Ecco, ma per l'Italia questa corsa al mattone, noi ci stiamo chiedendo, questa febbre da museo che sta prendendo tutte le istituzioni, tutti i comuni, si vogliono costruire musei d'arte contemporanea in tutte le città, non è forse una produzione di contenitori, una produzione di cornici e poi quello che ci si mette dentro sarà comunque arte? Beh no, credo che quello siano, noi si pensa sempre alla spesa, si pensa sempre che i soldi siano soltanto spesi, no, i soldi a volte sono investiti. Dipende appunto poi cosa ci facciamo con questi contenitori, cosa ci mettiamo dentro questi contenitori, più che altro chi li gestisce e con che metodi li gestisce, cosa di cui noi siamo alla età neolitica, direi, della gestione dei musei di arte e in generale, in particolare di arte contemporanea. E qual è la clava che viene usata? La politica? I soldi? La politica è devastante, la politica è come il fondamentalismo islamico in Pakistan per quello che riguarda la cultura in Italia. I governi sia di destra che di sinistra fanno quello che vogliono con la cultura, fanno quello che vogliono con i musei che costruiscono, impongono regole totalmente sconnesse, schizofreniche rispetto alla qualità della gestione, anche se a volte poi per puro caso il signore di destra e di sinistra che viene messo, la signora che viene messa a capo di un'istituzione è bravissima e quindi fa il suo dovere. Ma è soltanto una casualità se le cose funzionano. Quindi sono più opere faraoniche che magari il politico, il ministro vuole intestare in fondo a sé per futura gloria, che non vere e proprie fabbriche d'arte. Ma guardi, ci sono dei casi. E per facciamo un caso qualche che esempio, così è più chiaro anche per i nostri ascoltatori. Vabbè, un caso che è stato scottante negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, quando È stato il caso del madre di Napoli, che è passato dalla gestione della regione del governatore Bassolino alla gestione del governatore Caldora della destra. E ha staccato la corrente al museo, ha tolto i fondi. Praticamente ha staccato la corrente, ma più che altro vittima è stato il direttore Edoardo Ciceli, che è una figura che è stata sicuramente nata dalla politica, però è stata una figura che ha saputo gestire e ha creato un programma di alta qualità. Però di lì la politica si va a mettere di traverso nel bene e nel male, ha delle scelte in cui la politica non dovrebbe assolutamente mettere il naso, e quindi poi gli investimenti diventano soltanto spesa. E visto che Bonami ci parlava del madre, ascoltiamo assieme una clip in cui Valeria Golino, che ha girato un cortometraggio nel Madre, Armandino e il Madre, racconta come lei vive questo museo molto materno. Negli anni ho pensato di fare un film, però non avevo mai pensato a un corto. Abbiamo deciso di ambientare questa piccola storia d'amore o di riconquista di un amore al Museo Madre, perché è un posto già di per sé un po' magico. A Napoli c'è un bambino rom, a cui io mi sono ispirata, che viveva lì e che usava il museo per andare a giocare, entrava nudo nel museo e correva da tutte le parti, che tutte le guardie giurate conoscono. Quindi un luogo sofisticato, che però viene permeato dalla vita esterna e non si difende, anzi la accoglie. Bonami, che ne dice? Molto sexy come guidatrice. Molto sexy, molto demagogica la Golino, molto, molto poco realista, nel senso che perché ce n'è uno solo di bambini che gira nudo per il museo. Se ce ne fossero di più, secondo me le guardie forse interverrebbero giustamente e eviterebbero che la cosa si ripeta. E comunque questo cortometraggio, se non sbaglio, fu finanziato ebbe una committenza privata, un'industria della pasta. E questo forse ci aiuta a porre una domanda, credo, fondamentale, ed è poi il motivo per cui Bonami ci parla dall'America e non è qui in Italia a dirigere qualcuno di questi musei d'arte contemporanea come meriterebbe. Beh, forse se si aiutano di più i privati e i finanziamenti privati, defiscalizzando gli investimenti, ci sarebbe quella clava della politica di cui parlavamo prima, dell'età neolitica in cui stiamo vivendo per la gestione dell'arte, forse sarebbe più clemente quella clava. Guardi, io intanto faccio una piccola correzione: io sono il direttore della Fondazione San Vittorio delle Padenga a Torino da 15 anni, quindi, e che è un'istituzione privata, ma con un'istituzione pubblica, non è soltanto un luogo chiuso dove si un motore ibrido nel senso buono, che carbura sia con i soldi. È un modello ibrido abbastanza all'americana, perché ora noi diamo sempre addosso alla politica, io in particolare, però devo dire che vanno anche educati i finanziatori o gli sponsor, come voglio dire, o i sostenitori privati, che vedono il loro intervento soltanto in funzione autocelebrativa, nel senso che posso dare qualche soldo a delle istituzioni pubbliche, a patto che le istituzioni pubbliche si genuflettano e facciano quello che vogliono loro, dalle mostre alle idee, agli artisti che magari certi collezionisti collezionano. In America è assolutamente l'opposto. In America il cittadino privato, il magnate, il filantropo vede nel museo uno strumento di elevamento di tutta la società e quindi è disposto a finanziarlo a prescindere dai programmi, basta che i programmi seguano dei criteri di qualità. Ma in America, dove io ho lavorato al Museo di Chicago per 10 anni, mi sono capitati tanti privati che davano tantissimi milioni al museo, ma mai nessuno che mi ha detto: ti do 1 milione se mi fai la mostra di Tizio e Caio. Ringraziamo Francesco Bonami di avercelo ricordato. Grazie. Grazie. Amici, buonasera e benvenuti all'Asta Tosta. Oggetti tosti per tutti i gusti. Amici, attenzione, perché questa sera voglio presentarvi degli oggetti tostissimi. Ma quando dico tostissimi, tosti, signori, attenzione, tutta roba proveniente da eredità, donazione, furti, soprattutto furti. Vorrei subito partire, amici, con un articolo marinaro, un articolo estivo. Sto infatti per presentarvi le pinne di Pippo Baudo. Francesco Bonami ci ricordava appunto che per i privati bisogna aspettare agevolazioni fiscali, bisogna aspettare che la politica faccia un passo indietro. Però ricordiamolo, 3.000 musei in Italia, una febbre che prende i politici, il ministro che vuole il grande museo museo da 100 milioni di euro, ma forse chiunque di noi ha una collezione a cui è molto affezionato, di farfalle, di francobolli, persino di cavatappi, come ci racconterà il direttore del Museo dei Cavatappi, Paolo Annoni, in collegamento con noi. Buongiorno, direttore. Buongiorno. E insomma, questa ci racconti quando è nato, quanto le costa, quanti visitatori ha questo Museo del Cavatappi? Sì, dunque intanto diciamo che il Museo dei Cavatappi è a Barolo, nelle Langhe, in Piemonte, ed è il frutto di una mia collezione privata. Io sono collezionista di cavatappi antichi da 25 anni e ho collezionato nel mondo circa 1300 esemplari. Dove li tiene? Quanti ne espone? Perché sono allora, una quantità. Ne ho esposti 500 qui al museo e un'altra parte sono a casa o in banca. Qual è il pezzo in banca addirittura? Il pezzo più prezioso della sua della collezione del museo? Qual è? È un pezzo del quale esistono due esemplari, uno ce l'ho io, l'altro ce l'ha un collezionista della Napa Valley in California. E prezzo? Anche se... E prezzo preferirei non dirlo. Ah, okay. Per avere un'indicazione, vi do questa informazione. Sì. Il cavatappi più caro venduto a un'asta di Christie's, che dedica una volta all'anno un'asta solo ai cavatappi, è stato venduto per circa 56.000 sterline. Beh. Nel museo ne è esposto uno, per esempio, di Cartier in argento massiccio, e, diciamo con il manico leopardato, come era di moda un po' di anni fa. Caspita, come i completini sexy. E concludendo, come si finanzia? Lei riceve, ho visto sul sito Regione Piemonte, ha degli aiuti, prima abbiamo parlato appunto dei privati, prima di defiscalizzarsi, ci faccia capire il volume, quanti visitatori ha e che giro ha anche economico. Allora, e il biglietto dunque, quanto costa? Perché magari c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che facendosi un giro quest'estate nelle Langhe può venire a trovare. Questo museo non ha avuto un centesimo di finanziamento, quindi è tutto totalmente un'attività privata. E quanto costa il biglietto? Che volume ha? Quanti visitatori? È di 4 euro persona. E quanti visitatori all'anno? Allora, facciamo un bel numero, nel senso che siamo molto soddisfatti, sia nel 2009 sia nel 2008 abbiamo superato i 10.000 biglietti staccati. Benissimo, se io dovessi farle un'offerta per rilevare il suo museo, da che base d'asta partiremmo? Proposta indecente, ma ci dica una cifra indicativa, ci faccia sognare. Guardi, ovviamente non è in vendita, ma tra la collezione e l'attività partiamo dal 1 milione di euro in su. Forse una conclusione possiamo anche trarla. In Italia, finché c'è la clava della politica, tutti questi soldi finiranno forse più per opere del narcisismo della classe politica, più che dare sfogo a quel bisogno di libertà che ognuno di noi può avere, che ogni cittadino, ricco o meno ricco, che voglia investire nell'arte, che ha un suo mercato con le sue bolle finanziarie, ma quindi come tutto può anche creare profitto, è assolutamente sì che venga consumata l'arte, perché altrimenti da sola deperisce senza buon motivo. Beh, pensate un po', un secolo fa i futuristi, che sono stati il più grande movimento artistico e culturale italiano dopo il Rinascimento, dichiaravano guerra ai musei, guerra alle accademie. E poi però cos'è successo? È successo che hanno fatto anche loro un po' di errori, cantavano la guerra, sono finiti male. Qualcuno, Fortunato De Pero, già negli anni 50 fece addirittura un museo del futurismo. E noi che amiamo i musei dove godiamo della nostra libertà, ma vorremmo anche buttare via un po' meno soldi come cittadini, dedichiamo ai futurismo questa fantastica lettura di Carmelo Bene del Manifesto Futurista. E un saluto da Luca Mastrantonio, un ringraziamento da Alessandro Chiappini in regia. Vi ricordo che Time Out va in onda il sabato e la domenica mattina alle 9:30. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni, di antiquari.